La principale novità nell'udienza del 18 aprile, nel corso del processo che vede imputato Gilberto Cavallini di concorso nella strage del 2 agosto 1980, è che ci sarà una nuova perizia chimico-esplosivistica. Lo ha annunciato il presidente della Corte d'Assise, Michele Leoni, che ha già individuato l'esperto che si occuperà dell'ordigno, della perizia sull'ordigno attraverso una rilettura delle carte ed eventuali metodiche sperimentali. Si tratta di Danilo Coppe, un esperto che è già stato parte civile nel processo per l'attentato di Piazza della Loggia, quello avvenuto a Brescia nel 1974. E sono due i quesiti a cui Coppe dovrà rispondere. Innanzitutto dovrà rispondere a proposito della composizione dell'esplosivo usato a Bologna 38 anni fa, utilizzando tecniche più avanzate rispetto alle perizie precedenti, e il motivo, ha spiegato il presidente della Corte d'Assise, è che questo può avere un riflesso nell'individuazione della provenienza dell'esplosivo utilizzato. Il secondo quesito riguarda l'innesco, se timer o innesco chimico. Il motivo sta nel fatto che con il timer sarebbe stato programmabile un periodo di tempo, un arco di tempo in cui gli attentatori avrebbero potuto allontanarsi, mentre nel caso di innesco chimico questo non era possibile. E questo, diciamo, è la principale novità che è emersa ieri. E ieri poi è stata un'udienza in cui principalmente hanno parlato le donne che ormai 4 decenni fa fecero parte o comunque furono vicine agli uomini dei NAR. La prima è stata Flavia Sbraiavacca, ex compagna di Gilberto Cavallini, e poi c'è stata l'ex fidanzata di Luigi Ciavardini, poi condannato in via definitiva per la strage, si chiama Elena Venditti, ed ha parlato anche la sua amica dei tempi, Cecilia Loreti, che anche lei stava con un nero, Marco Pizzari, che venne ucciso da Inara il 30 settembre 1981 perché era considerato una spia all'origine dell'arresto di un neofascista che poi si è suicidato. Insomma, partiamo dalla prima. Flavia Sbraiavacca venne accusata ai tempi di favoreggiamento e poi è stata assolta. Nel frattempo si è rifatta una vita e durante la sua deposizione si è trincerata dietro molti non ricordo. Lei conosceva Gilberto Cavallini con un nome falso, Luigi Pavan, fin dall'inizio della loro relazione e come tutti lo chiamava Gigi. Lui ufficialmente lavorava per una compagnia telefonica che gli consentiva numerose trasferte che venivano utilizzate poi come copertura per le sue attività terroristiche. La donna, che era proprietaria della casa di Villorba di Treviso, presso cui furono ospitati Fioravanti e Mambro a ridosso della strage, scoprì la vera identità del suo compagno solo il 26 novembre del 1980, quando Cavallini e un altro neofascista vennero sorpresi in un'officina di Milano e uccisero un brigadiere dei carabinieri, Ezio Lucarelli. Fu proprio in quel momento che lei lo scoprì, in particolare perché l'auto portata nell'officina era la Opel Kadett di Flavia Sbraiavacca. Questo non pose fine alla relazione tra i due, anzi lei lo seguì in un lungo percorso di fuga che durò sostanzialmente quasi 3 anni e che la portò prima in Svizzera e poi a peregrinare tra Londra, Atene, Parigi e Cadice. Per il resto sono stati tanti non ricordo. Sì, si ricorda di Riccardo e Chiara, che erano i nomi utilizzati ai tempi da Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, ma li conosceva poco, non ricorda in che stanza dormissero nella sua casa e non ricorda delle discussioni tra Gilberto Cavallini e Roberto Rau, un altro esponente del neofascismo veneto. Quando le è stato chiesto chiesto che posizione politica lei avesse, è stato detto che mi davano dell'anarchica e tanto a destra non tiravo. Passando invece alla seconda deposizione, quella di Cecilia Loreti, ricordiamo appunto che era la fidanzata di Marco Pizzari e con lui venne fermata il 23 settembre del 1980, dopo un interrogatorio lunghissimo, prima come testimone e poi come indagata, fu rilasciata insieme a lui. E lei ieri ha detto in udienza: se ci avessero arrestati Marco non sarebbe morto, perché proprio il rilascio dei due giovani ha fatto ritenere agli altri dei NARA, che venivano chiamati i magnifici sette pazzi, che avessero parlato e avessero fatto delle confidenze alla polizia. L'importanza particolare della deposizione della donna, che più volte si è commossa ricordando l'omicidio dell'indagato, riguarda però la telefonata che suo zio ricevette alla Dispoli il primo agosto del 1980, una telefonata che fece Luigi Ciavardini, che ai tempi era latitante in Veneto, e che diceva a Cecilia Loreti, al suo fidanzato e ad Elena Venditti, la fidanzata di Ciavardini ai tempi, di non partire per Venezia, facendo poi tappa alla stazione di Bologna. Elena Venditti invece, sentita per ultima nella giornata di ieri, è rimasta salda sulla sua versione di sempre. La telefonata allo zio di Cecilia Loreti non avvenne il primo ma il 2 agosto, di conseguenza dopo la strage. Lei è stata categorica nel definire questo, perché parla di immagini che lei quella mattina vide in televisione prima di andare al mare. La sua testimonianza, per quanto salta, comunque non contribuì già nei processi precedenti a evitare la condanna a Ciavardini. E a proposito dei rapporti con Gilberto Cavallini, lei ha detto in aula di averlo visto la prima volta solo a processo. Di fatto i pubblici ministeri e gli avvocati di parte civile hanno fatto riferimento a deposizioni precedenti della donna, in cui lei parla di una conoscenza con Cavallini, e lo aveva definito anche colui che aveva un accento settentrionale e che girava armato. La prossima udienza è fissata per il 9 maggio prossimo. Saranno sentiti due testimoni. Il primo è un neofascista, poi divenuto collaboratore di giustizia, Walter Sordi, mentre il secondo è proprio Luigi Ciavardini, colui che venne condannato, uno dei tre che vennero condannati per la strage alla stazione di Bologna.